want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buona domenica a tutti da Gigi Telesforo, questo è il soundcheck prova del suono di Radio 24 numero 163, sì, mancano soltanto due weekend alla chiusura di questa prima stagione del nostro soundcheck, ma credo che in qualche modo Radio 24 si stia organizzando per non abbandonare il suono del soundcheck anche durante il mese di agosto, riproponendovi alcuni dei momenti che hanno caratterizzato questa nostra prima stagione. Nella puntata di oggi vi racconteremo, vi segnaleremo alcuni dei concerti più interessanti da seguire nel nostro paese, ma anche gli appuntamenti più corposi e pieni di musica che ci saranno all'estero, nelle capitali della musica, e vogliamo partire dando spazio e visibilità a una voce molto apprezzata dai radioascoltatori di Radio 24, del nostro soundcheck, che hanno inviato le loro email numerosissime durante questi primi mesi al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, segnalandoci più volte a ogni passaggio i loro apprezzamenti per la voce bellissima, caldissima, profonda di Lala Hathaway. L'abbiamo raccontata più volte la storia di Lala Hathaway, figlia del grande Donny Hathaway, in carriera ha registrato soltanto 5 album, tra l'altro album non così interessanti come le performance che invece ha regalato ultimamente a altri grandi artisti, e quest'anno si è aggiudicata anche il Grammy Award per la bellissima performance vocale fatta nella session discografica realizzata dagli Snarky Puppy per l'album Family Dinner. Ma Lala Hathaway l'abbiamo scoperta un paio di anni fa, l'abbiamo riscoperta un paio di anni fa nella produzione di Robert Glasper con i suoi Experiment intitolata Black Radio One. Allora diamo il via al soundcheck di oggi mettendo, puntando gli highlights, i nostri riflettori sulla vocalità di Lala Hathaway in compagnia degli Experiment di Robert Glasper, in questo brano portato al successo diversi anni fa dalla bellissima Sade. Cherish the Day, questa è la versione contemporary, vagamente jazz e funk di Robert Glasper con la voce di Lala Hathaway al soundcheck di Radio 24. La voce di Lala Hathaway per Robert Glasper, Experiment con Cherish the Day qui al soundcheck di Radio 24, e andiamo subito a vedere quali possono essere gli appuntamenti nel corso dei prossimi giorni da seguire dal vivo nel nostro paese. Insomma, l'abbiamo detto, questa è la stagione dei concerti, sono partiti i vari festival più o meno importanti, e fra i concerti che vi vogliamo segnalare ce n'è uno proprio questa sera per Strade Blu Festival a Modigliana con la partecipazione di Marc Ribot e Arto Lindsay. Poi il mercoledì 16 si sposteranno a Milano a Villa Arconati, e venerdì 18 approderanno a Roma per Città dell'Altra Economia e Eutropia Festival all'ex macello del Testaccio. È in giro anche Franco Battiato, che lunedì arriva a Roma al Centrale e poi dal vivo sarà anche a Milano il 17 all'Alfa Romeo City Sound. Arrivano anche i Kraftwerk il 14 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, così come Goran Bregovic arriverà sempre a Roma il 15, sempre al festival che si svolge lì alla Città dell'Altra Economia per Eutropia Festival, e il 17 sarà a Siena. Altri concerti da segnalarvi: quello del trio di Jonathan Butler a Sesto San Giovanni, il 17 sarà a Bolzano, e Regina Carter con il suo violino, con il nuovo progetto, il 15 a Piana Rotoliana Monte di Mezzacorona per i Suoni delle Dolomiti Festival, e il 17 sarà nella bellissima Ravella Grillo con il suo festival spettacolare. Questi primi appuntamenti che vi vogliamo segnalare, non vorrei dimenticare anche all'Auditorium Parco della Musica la performance che ci sarà il 16 del nostro Stefano Bollani in compagnia del talentuoso Hamilton Giollanda con il suo bandolim, questo strumento che coniuga il banjo e il mandolino. Per luglio suona bene all'Auditorium Parco della Musica. Questi primi concerti e i primi festival che possiamo seguire nei prossimi giorni, e andiamo, torniamo a Robert Glasper con i suoi Experiment, che coinvolgono ancora una volta anche per l'ultima produzione Black Radio 2 la voce di Lala Hathaway, qui in un brano scritto da Stevie Wonder intitolato Jesus Children. Sempre Lala Hathaway protagonista del soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E il soundcheck di Radio 24 vi vuole anche anticipare che prossimamente in Italia, nelle sale italiane, a partire dal prossimo novembre, c'è un bel film da andare a vedere. Si intitola Get On Up, The Movie, ovvero la storia di James Brown raccontata dal bravissimo regista Tate Taylor, che ha anche curato la produzione di questo capolavoro, di questo musical interpretato da un giovane emergente chiamato Chadwick Boseman, che ha dovuto lavorare abbastanza per imparare a memoria tutto il repertorio di James Brown, ma anche tutte le movenze tipiche e i passetti tipici di James Brown durante le sue performance. Al film hanno partecipato anche Octavia Spencer e Viola Davis, che avevano già collaborato con Tate Taylor per la realizzazione del dramma corale The Help, e qui interpretano la zia e la mamma di James Brown. Dunque la trama racconta la storia di come questo giovanissimo James Brown, da bambino povero, ha percorso la lunga e tortuosa strada verso il successo che poi lo ha portato a diventare uno dei più popolari artisti di tutti i tempi. E magari prima di andare a vedere il film a novembre potrete già vedere i trailer in internet di Get On Up, The Movie, la storia di James Brown. Vi consiglio di leggere anche la autobiografia di James Brown intitolata I Feel Good, e fra le pagine, esattamente nella pagina 38, troverete anche la descrizione di James Brown che riguarda la produzione del famoso concerto realizzato all'Apollo Theater nel 1962, concerto e disco dal vivo prodotti personalmente da James Brown, che spese gli unici $5,700 presenti sul suo conto in banca. E quindi James Brown ci dice: volevo così mostrare alla gente che non mi conosceva cosa si perdevano se non venivano a vedere James Brown dal vivo, in modo che volessero vederne e sentirne ancora di James Brown. E anche noi, a distanza di anni, vogliamo vedere e sentire ancora James Brown, non ci stufa mai, anche perché viene rivisitato anche da alcuni fra i più importanti DJ del momento, fra questi anche Muro Mix, che rivisitano The Funky Drummer, brano scritto da James Brown per celebrare la sua amicizia con il batterista Clyde Stubblefield, qui presente al soundcheck di Radio 24. James Brown, Funky Drummer. Hi everybody, today we will interview James Brown. How are you doing, Mr. Brown? Soundcheck, il suono della musica. No, it's so cliche. Bitches can't ever be passé. Bitches. Oh, even on Judgment Day. Bitches. For my soul, please pray. È lui l'artefice del movimento culturale, musicale e intellettuale denominato BAM, ovvero Black American Music, il trombettista Nicholas Payton, che ha realizzato da solo in studio di registrazione molte tracce presenti in questo album super funk, dal quale abbiamo ascoltato Bitches. E dall'intellettuale della black music Nicholas Payton a un festival molto interessante anche per gli appassionati di vino buono, sì, perché è un festival che si tiene nella bellissima cittadina di Barolo in Piemonte dal 18 al 21 luglio, Festival Collisioni, festival di letteratura e musica in collina che presenta artisti che provengono da varie estrazioni musicali, si va dalla musica, dal sound potentissimo dei Deep Purple alle canzoni d'autore di Francesco Guccini e Francesco De Gregori, Elisa, Susan Vega, Morgan Caparezza, Neil Young and the Crazy Horse. Questo a Barolo, lo ripeto, dal 18 al 21 di luglio. Ma questa è anche la settimana clou dell'Umbria Jazz Festival. Questa sera per esempio c'è John Scofield, ma anche la performance di Ray Gelato, molto divertente. Domani arrivano anche a Perugia Stefano Bollani e Hamilton Giollanda, ma da non perdere domani notte a mezzanotte al Teatro Morlacchi la performance dei formidabili Snarky Puppy, che più volte abbiamo proposto qui al Soundcheck. Il 15 da New Orleans arriva Dr. John, arriva anche la tromba di Ambrose Akinmusire, il 16, oh mamma mia che copia, Herbie Hancock e Wayne Shorter, poi c'è il concerto di Monty Alexander, quello di Christian McBride con il suo trio, il 17 Gonzalo Rubalcaba, i Romi e Paolo Fresu in quintetto, il 18 il sassofonista Francesco Cafiso, Natalie Cole e Fiorella Mannoia, da non perdere anche la performance del nostro pianista Franco D'Andrea. Il 19 sbarcano a Perugia The Roots, Roy Hargrove e Roberta Gambarini, che ormai da anni vive a New York e è una stella del jazz di oggi. E il 20, grande serata con grandissime voci, con Take Six, Al Jarreau, Mario Biondi e poi la performance di Dino e Franco Piana Jazz Orchestra. Questi gli appuntamenti clou di Umbria Jazz Festival questa settimana. Abbiamo chiamato in causa Roy Hargrove, che qui apprezziamo con i suoi RH Factor in How I Know. Questo è il Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Trombettista Roy Hargrove per una volta lascia il suo strumento nella custodia per cimentarsi vocalmente con una sua composizione intitolata Royal Lan per l'album del giovane trombettista Theo Crocker, prodotto ultimamente per la Sony Music dalla nostra amica Didi Bridgewater. Ci sono altri appuntamenti da seguire in giro per l'Europa, nelle capitali della musica. Andiamo a vedere subito che cosa succederà a Londra la prossima settimana, anzi a partire da questa sera, perché a Hyde Park questa sera c'è il veterano Tom Jones, ma da non perdere il concerto al Jazz Café domani sera con uno dei protagonisti del contemporary R&B, ovvero Bilal, molto apprezzato e sponsorizzato anche da Robert Glasper, e poi un trio eccellente, Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade, sempre domani sera al Ronnie Scott a Londra, così come arriva Elvis Costello a Londra al al Kew Gardens di Richmond, e poi sabato 19 da segnalarvi anche la performance live del maestro di elettronica Bonobo a Parigi. Eccoli qui, arrivano da Perugia Herbie Hancock e Wayne Shorter martedì 15 all'Olympia, così come i Take Six il 15 saranno presenti dal vivo al New Morning, e sempre al New Morning venerdì 18 Randy Brecker riunisce i Brecker Brothers. Naturalmente non ci sarà Michael, il compianto Michael Brecker, scomparso anni fa a causa di una leucemia. Ci spostiamo a Berlino, dove ci sarà il concerto il 16 di Robert Plant con i Sensational Space Shifters, e ancora approdano a Berlino i Brecker Brothers il 16 al Lido, e Natalie Cole sarà presente in performance il 16 all'Admiral Palace. A Madrid c'è Manu Chao il 16, quindi mercoledì, così come i Portishead il 16 al Palacio des Deportes, e Anthony and Johnson venerdì 18 al Teatro Real de Madrid. Questi gli appuntamenti da seguire in Europa la prossima settimana. Noi chiudiamo questa prima parte del nostro soundcheck dandovi appuntamento alle 19:15 per una seconda parte jazz, che oggi vuole celebrare il compianto pianista, arrangiatore e compositore Horace Silver, scomparso proprio pochi giorni fa. E quindi appuntamento alle 19:15 sempre qui su Radio 24. Vi lascio ancora con Theo Crocker e la bravissima Didi Bridgewater in questo brano intitolato Save Your Love For Me. Questo è il soundcheck, ci sentiamo più tardi. Save your love, save your love, save your love, save your love. So in love with you. Want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Want to, want two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telesforo. Per dare il via alla seconda parte del soundcheck di oggi, buonasera a tutti da Gigi Telesforo. L'abbiamo annunciato, questa seconda parte sarà interamente dedicata alla figura di uno dei grandi protagonisti del jazz, soprattutto del periodo hard bop, ovvero il pianista compositore Horace Silver, scomparso pochi giorni fa per cause naturali all'età di 85 anni. Ecco, nato nel Connecticut, Horace Ward Martin Tavares Silva proveniva da una famiglia originaria di Capo Verde, e fin da piccolo fu influenzato dalla musica folk delle isole al largo del Senegal. Influenze ritmiche e musicali che poi abbiamo risentito in quasi tutte le pubblicazioni realizzate da Horace Silver nell'arco della sua carriera. Molte delle pubblicazioni sono state distribuite per l'etichetta Blue Note. Horace Silver ha iniziato la sua carriera da musicista come sassofonista, poi è passato al pianoforte, e il primo tour ufficiale che ha realizzato lo ha fatto col sassofonista Stan Getz. Poi si stabilisce a New York, dove per 25 anni ha lavorato con la casa discografica Blue Note, e il suo primo album, Horace Silver and the Jazz Messengers, con Art Blakey alla batteria, è considerato proprio la pietra miliare della corrente hard bop, che trae ispirazione proprio dal rhythm blues, dal gospel e dal blues. Qualche anno dopo, poco tempo dopo, Horace Silver lascia le redini dei Jazz Messengers al batterista Art Blakey per guidare e mettere su questo favoloso quintetto che ascoltiamo subito da un album meraviglioso intitolato Finger Poppin', realizzato sempre per la Blue Note con le magiche sonorità create dall'ingegnere del suono Rudy Van Gelder, e con Horace Silver ci sono i suoi compagni, ovvero Junior Cook al sax tenore, il bravissimo Blue Mitchell alla tromba, Gene Taylor al contrabbasso, Louis Hayes alla batteria. 1959, Finger Poppin', il brano è splendido, si intitola Juicy Lucy. Horace Silver, protagonista del soundcheck di oggi. Juicy E non vi nascondo che avrò ascoltato centinaia di volte questa versione di Juicy Lucy di Horace Silver per imparare a memoria l'assolo bellissimo proposto dal trombettista Blue Mitchell. E in questo finger popping è presente anche un altro brano che è considerato uno dei cavalli di battaglia del songbook di Horace Silver, ovvero Come On Home, brano che viene recuperato e registrato anche dall'eccellente trio vocale John Hendricks, Dave Lambert e Annie Rose, che naturalmente in puro stile vocalist aggiungono un testo sensato agli assoli di Blue Mitchell, Junior Cook e Horace Silver. Eccola qui la versione vocale di Come On Home per John Hendricks, Dave Lambert e Annie Rose per ricordare Horace Silver qui al Soundcheck di Radio 24. Come on home and be welcome to stay. Baby, tell me you're coming home. Living alone is so lonely. I never should ever have run you away. Soundcheck. Il suono della musica. I found a happy medium right here in my E oggi il Soundcheck di Radio 24 vuole rendere il meritato tributo alle vicende musicali del pianista, compositore e arrangiatore Horace Silver, che ha fatto la storia del jazz, uno dei pionieri dell'hard bop, un grandissimo talent scout, che dopo la fase hard bop, quella più acustica, intorno all'inizio degli anni 70 realizza un album splendido intitolato The United States of Mind, con la partecipazione di diversi vocalist, fra i quali Andy Bay, che qui abbiamo ascoltato in questa interpretazione di una delle composizioni più divertenti di Horace Silver, la bellissima The Happy Medium. Un album favoloso da non perdere, che segna il passaggio proprio dal suono acustico hard bop alla fase funk di Horace Silver, ed è un album che lancia anche dei giovani talenti, fra questi i fratelli Brecker, Randy e Michael Brecker, oppure il giovane sassofonista George Coleman, oppure il formidabile batterista della nuova generazione di allora Idris Mohamed, ma anche il trombettista Cecil Bridgewater, che in studio si presenta con una bella ragazza chiamata Didi, che di lì a poco diventerà anche sua moglie. E pensate che Didi Bridgewater nel 1994, quindi lo ha fatto in anticipo, coinvolge Horace Silver in questo tributo alla musica di Horace Silver realizzato per la Verve, album intitolato Love and Peace, e da Love and Peace di Didi Bridgewater come tributo a Horace Silver ascoltiamo questa sua versione di un'altra composizione splendida intitolata The Tokyo Blues. Didi Bridgewater, tributo a Horace Silver al Soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Sound check. Il suono della musica. What a peaceful time. Time. e le melodie scritte da Horace Silver per le sue composizioni sono state interpretate anche vocalmente dai più importanti vocalist della storia del jazz, addirittura Bobby McFerrin qui dal suo primo album del 1982 fra i vari titoli decide di inserire anche la splendida Peace, altro brano che fa parte del repertorio del maestro Horace Silver che oggi abbiamo celebrato qui al Soundcheck di Radio 24. Siamo quasi ai saluti, io voglio ricordarvi i nostri contatti, ovvero soundcheck@radio24.it per inviare le vostre email, per chiedere le informazioni su tutti i brani in Airplay, ma ricordarvi anche che sono attive le pagine Facebook di Soundcheck 24 e anche attraverso Twitter potrete farci le vostre segnalazioni o comunque restare in contatto. Per chiudere in bellezza quindi questo appuntamento per celebrare la figura di Horace Silver, ho scelto un altro brano tratto dall'album intitolato United States of Mind del 1972, sempre per la Blue Note, sempre un album registrato dal maestro Rudy Van Gelder, quello che è un po' il padrino del suono del jazz per quel che riguarda il lavoro svolto in studio di registrazione. Addirittura nei primi anni Rudy Van Gelder utilizzava casa sua come studio di registrazione e i musicisti molto spesso registravano proprio nella cucina, perché secondo Rudy Van Gelder il suono della batteria ripreso in cucina assumeva quella sonorità che poi ha fatto la storia del jazz. Comunque, da Rudy Van Gelder torniamo a Horace Silver, United States of Mind. Il brano per chiudere il soundcheck di oggi si intitola The Show Has Begun e la voce è sempre quella inimitabile di Andy Bay. Grazie a tutti voi per l'attenzione, noi ci risentiamo quindi sabato prossimo a partire dalle 19 dopo l'informazione, poi seconda parte quella della domenica divisa in due set alle 15:15 e poi la seconda parte più jazz che parte alle 19 sempre dopo l'informazione. Grazie a tutti voi, trascorrete una piacevole settimana, vinca il migliore questa sera per chiudere anche i mondiali e allora buona musica da Gigi Telesforo con Horace Silver e Andy Bay, The Show Has Begun. Grazie a tutti voi. Here we stand in distant land with distant memories. Wondering why the things we see have distant reverie. Have we met sometime somewhere in life's gigantic show? Have we both fulfilled a part in plays of long ago?